Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. All'improvviso arrivò mio cugino Angelino di 5 anni e mi disse piano nell'orecchio, per non farsi sentire da suo padre: vieni con me, mio fratello Ciccio ha trovato una cosa bella e interessante. Prese un martello e andai con lui. Mi chiamo Giuseppe, vivo in un paesino in provincia di Torino, lavoro in un'industria dove costruiamo dei display luminosi a LED. Ho 54 anni e sono sposato con un bambino di 12. Esistono delle leggende infantili più che metropolitane, infantili perché sono rivolte all'infanzia e ai bambini, delle leggende che usano i genitori per spaventare i bambini, più che per spaventarli, per farli stare allerta. Ce ne sono diverse, quelle per cui non si prendono caramelle dagli sconosciuti, ovviamente, quelle per cui se vai in giro di notte devi fare attenzione, meglio non farlo, e in alcuni casi anche se trovi qualcosa per strada, in campagna, nel giardino, che è qualcosa di sconosciuto, beh, quella cosa può essere pericolosa. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia. 349-238-6666 è per mandare gli sms. Voi siete qui, Radio 24 invece è il profilo Facebook del programma. Voi siete qui, R24 è il profilo Twitter. Questo è un programma in cui ogni giorno raccontiamo una storia, e la storia di oggi, che è la storia di Giuseppe, è esattamente la concretizzazione di una di quelle leggende che i genitori utilizzavano per spaventare i propri bambini e per tenerli svegli, insomma, in realtà per tenerli lontano dal pericolo. Questa è una di quelle storie che probabilmente girano ancora nel paese dove Giuseppe è cresciuto, di quella volta in cui i bambini trovarono un oggetto strano in una casa e accadde qualcosa che sarebbe stato meglio non accadesse. 349-238-6666, ve la ricordate la volta in cui da bambini o da ragazzini siete andati proprio a tanto così, da un rischio enorme, una cosa che avrebbe potuto rovinare la vostra esistenza, probabilmente quella di altri e probabilmente quella dei vostri genitori anche. Siete andati a tanto così facendo una cosa pericolosa che ovviamente avevate sottovalutato. 349-238-6666. Maria Donata, ad esempio, ci scrive: e come più di una, a noi però ne basta una, a 9 anni mi sono avventurata su una passerella, ho fatto l'asse di equilibrio, che non so cosa voglia dire, è quella cosa che stum, o semplicemente cammini sull'asse, stai in equilibrio sull'asse, non è quella cosa che stum, avete capito? Quella cosa che stum è quando c'è una, diciamo, una leva in mezzo e tu cammini sull'asse e l'asse, boom, cade, stum, cade dall'altra parte. Vabbè, il gioco non lo so come si chiama. Comunque, Maria Donata: ho fatto l'asse di equilibrio e sotto di me fumava Calceviva. È un'immagine infernale quella che ci manda Maria Donata. Basta però veramente una cosa piccola che avete fatto: vi siete arrampicati su un albero ed era pericolosissimo, vi siete tuffati in un fiume in piena, e siete andati a tanto così, ma eravate dei ragazzini e non lo sapevate. 349-238-6666, altrimenti Twitter e Facebook. Vi dicevo, la storia di Giuseppe sembra una leggenda infantile, sembra una di quelle storie che tra l'altro è stata raccontata probabilmente non tanto ai bambini della mia, della nostra generazione, parlo per quelli che sono anche di là dal vetro, ma di una generazione precedente, quando erano passati non tantissimi anni dalla guerra e ancora nelle campagne, nei campi e nei prati si rischiava di trovare degli ordigni esplosivi, e quella roba lì era veramente uno spauracchio enorme. Ecco, immaginate quella leggenda, immaginate di aver sentito di dei ragazzini troppo piccoli, troppo incauti, che trovano una vecchia bomba a mano. Domenica 6 ottobre 1968, a Umbriatico, un piccolo paese in provincia di Catanzaro, era una bella giornata. Io avevo 9 anni. Dopo essermi alzato e fatti i compiti, mi era venuta voglia di vedere i miei cugini per giocare, anche se era già ora di pranzo. Mia madre fece di tutto per fermarmi, ma io non volli sentire ragioni. Quando arrivai a casa dei miei cugini, i loro genitori mi dissero che non sapevano dove fossero. E allora io mi misi lì a guardare mio zio, che eseguiva un lavoro per strada col piccone. All'improvviso arrivò mio cugino Angelino di 5 anni e mi disse piano nell'orecchio, per non farsi sentire dal padre: vieni con me, mio fratello Ciccio ha trovato una cosa bella e interessante. Poi prese su un martello e io andai via con lui. Li trovammo nascosti sotto la volta di una casa. Raffaele e Antonio, due fratelli di 9 e 7 anni, e poi c'era Angelo, di 10, e il più grande, Ciccio, di 13 anni, tutti cugini. Ciccio era seduto sul gradino di una vecchia porta chiusa. Aveva in mano un oggetto di ferro dalla forma di un fico d'India. Quasi fuori paese, diciamo, una casa un po' alla periferia. E c'era questo posto sotto un solaio, un po' nascosto, dove tutti si erano nascosti con questo oggetto che avevano trovato, che io non c'ero ancora. Appena l'ho visto, io ho avuto subito paura. Ho avvertito il pericolo e gli ho detto di andare da suo padre subito a farglielo vedere. Ciccio però non voleva assolutamente. Doveva scoprire che cosa c'era all'interno di quell'aggeggio. Ho minacciato di andarmene, ma a lui non interessava nient'altro che aprire quell'oggetto, perché lo aveva trovato lui. Feci qualche passo per andarmene, ma alla fine mi fermai. Ciccio cercò di svitarlo, ma era un po' arrugginito. Allora prese il martello, quel martello che avevamo portato io e suo fratello Angelino. Diede un colpo per sbloccarlo, poi ne diede un altro, e al terzo colpo esplose. Io mi ritrovai scaraventato un metro e mezzo più in là, girato dall'altra parte, in ginocchio. Avevo la pancia bucata e altri buchi in tutto il corpo. Il botto si sentì per quasi tutto il paese. Quando arrivarono quelli che abitavano più vicino, si misero le mani nei capelli. Gridavano aiuto, ci prendevano in braccio e, avvolgendoci dentro a delle lenzuola, cercavano qualche mezzo che potesse portarci all'ospedale. A quei tempi nel paese le automobili si potevano contare con le dita di una mano. Quando arrivammo all'ospedale di Crotone, ricordo solo che mi tagliarono i vestiti. Dopo alcuni giorni che non davo segni di vita, i dottori dissero ai miei genitori che c'erano poche speranze di sopravvivenza. All'11° giorno mio padre partì a piedi per andare verso casa, a 60 km di distanza. Andava a prendere i vestiti per un mio eventuale decesso. Ma proprio quando mio padre tornò, sentirono che mi uscì un po' d'aria dal sedere. Era quello che i dottori stavano aspettando, un piccolo segnale di sblocco. E infatti, piano piano, iniziai a dare segni di vita. Mi ricordo che avevo quei tubi infilati nel naso, nella bocca, che usciva continuamente dei liquidi neri, di polvere da sparo, di tutto. È stata una notizia che tutti quanti sono rimasti sconvolti, la gente. Non ricordo in che momento seppi la sorte degli altri miei 5 cugini. Comunque in 2 uscirono con poche ferite non gravi. Dei 2 fratelli, il più grande di 9 perse un occhio, l'altro invece di 7 li perse entrambi. Ma mio cugino di 13 anni, quello che teneva in mano la bomba, non ce l'ha fatta. Dopo circa 40 giorni tornai a casa, ma per diversi anni capitava ogni tanto che mi sentissi pungere da qualche parte del corpo e allora i dottori mi toglievano una scheggia. Ora ho 54 anni. Ho ancora una scheggia palpabile in un braccio e una nella spalla, ma non mi hanno mai dato nessun fastidio. Ho una moglie e un bimbo di 12 anni. Ho fatto parecchie ricerche per trovare qualche giornale di quei tempi che parlasse di quella tragedia, ma non ho trovato nulla, a parte una pagina dove mio cugino, che abita a Roma, racconta l'episodio. Forse i giornali in quell'anno erano troppo impegnati con le rivolte dei giovani per occuparsi di un bambino morto con lo scoppio di una bomba a mano. Ma purtroppo è successo anche questo nel 1968. The sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence. L'11 agosto del 1999 c'è stata l'ultima eclissi totale di sole del millennio. Quel giorno c'era una grande eccitazione nell'aria. La fine del millennio spalancava l'immaginazione verso l'ignoto e l'eclissi ci calzava a pennello. C'era chi si organizzava la vacanza per assistere all'eclissi e c'era chi invece si accontentava di comprare degli occhiali speciali con le lenti scurissime, tipo quelle da saldatore, per non perdersi proprio nulla. Quello era un giorno speciale, di quelli che ne capitano solo 3 in un secolo. Io ho tutti i sensi allerta in quei giorni, tutto sto a parlare del sole oscurato, non so perché, ma non mi fa stare tranquillo. La sera prima ho fatto apposta l'alba con gli amici di Novara e la mattina dell'eclisse, proprio per starne alla larga, me la dormo a casa. Mi sveglio solo dopo che tutto è passato. il sole sta al suo posto, io sono contento di non essermi accorto di niente. Nel pomeriggio, sempre con gli stessi amici, andiamo a fare il bagno al Sesia. Appena arriviamo però, il Sesia non si presenta come al solito. Stanno rifacendo un ponte, hanno smantellato quello vecchio e hanno costruito un passaggio dentro al letto del fiume. Hanno convogliato tutta l'acqua del fiume dentro a dei tubi enormi e sopra i tubi hanno fatto un terrapieno di pietre e sabbia, che non è proprio una strada vera e propria, però i camion che trasportano i materiali riescono a passarci. Da una parte e dall'altra del terrapieno, però, si sono create due pozze limpide e piatte dove si può fare il bagno. Noi scegliamo quella valle perché c'è meno gente e ci buttiamo in acqua. Quel giorno, anche se siamo in tanti, me lo ricordo come un giorno silenzioso. Sembrava ci fosse un filtro su tutto. Le montagne che di solito alzavano l'orizzonte piatto della pianura quel giorno sembravano incombere con quella fissità. L'aria era calda, ferma. Verso le 7:30 di sera stiamo raccogliendo le nostre cose per tornare a casa, quando sentiamo chiedere aiuto dall'altra parte del ponte, dalla pozza, quella monte del terrapieno. Al grido di aiuto seguono delle urla di panico. Ecco, quello che segue, che sto per raccontarvi, non è durato più di un minuto, probabilmente. Un uomo che passava per caso dal terrapieno ci urla di raggiungerlo. Intanto lui scavalca la transenna e si fa scivolare fino ai tubi da dove passa l'acqua. Lui ci urla di muoverci, ci ordina di aiutarlo a strappare la rete. Noi non sappiamo chi sia, non sappiamo cosa stia facendo, non sappiamo cosa siano quegli urli dall'altra parte, ma lo facciamo comunque. All'uscita del tubo dove esce l'acqua stiamo facendo di tutto per strappare una rete di tondini di ferro che hanno messo gli operai, chi spinge, chi tira, chi martella i cardini con delle pietre. Dopo molti sforzi e molti ordini del nostro sconosciuto capitano, la rete si stacca e lascia passare foglie e rami. Quando il tappo di detriti si è liberato, dal tubo esce anche una bambina. Se dal richiamo dello sconosciuto a quel momento il tempo pareva essersi fermato, da questo momento in poi ha un'accelerazione improvvisa. Ci tuffiamo in acqua, la portiamo a riva. Ha 12 anni, è spaventata ma sta bene. Peggio di lei stanno i suoi amici, una compagnia di ragazzi dai 12 ai 15 anni che dalla riva hanno assistito alla scena. La fidanzata di un mio amico che si sta per laureare in medicina, dopo essersi assicurato che la ragazza non è in pericolo, soccorre anche gli altri. Intanto arriva un'ambulanza e la ragazzina viene portata via. Quando tutto è finito, rimaniamo noi e l'uomo. Adesso pure a noi tremano le gambe. Se non ci fosse stato lui, in quel posto, in quel momento, a sapere cosa fare, se non ci avesse urlato che cosa fare, non sarebbe andata come è andata. Sui nostri saluti, il sole cala. Per la seconda volta quel giorno. Fotografia di Giuseppe, ma potrebbe essere una qualunque fotografia che arriva proprio da quegli anni, dalla fine degli anni 60 o da metà degli anni 60. La foto la trovate come al solito sul nostro sito, alla nostra pagina, voi siete qui, se cliccate sopra, in questo caso sopra la scritta Granata, che è il titolo del racconto, vedete meglio la foto di Giuseppe, vedete i brani che mandiamo in onda tutti i giorni. Ha una bella faccia simpatica, i capelli scarmigliati ed è davanti alla macchina fotografica come si stava quando si è da bambini, ancora non sa esattamente che cosa sia quell'oggetto. Pronto Giuseppe? Sì, pronto. Ciao, come stai? Sto bene. Dove sei in quella foto che ci hai mandato? Sei in Calabria? Ma lì è a scuola, quelle fotografie che facevano a scuola da piccolo. Quindi intorno ci sono tutti gli altri compagni, però sono stati ritagliati. No, ci mettevano in uno a uno dietro la cattedra e ci facevano la foto. Intanto, mentre raccontavo la tua storia, Giuseppe, sono arrivati una marea di messaggi. Non c'è come chiederle queste cose. Praticamente un esercito di gente. Siamo un esercito di gente che tenta di farsi del male da ragazzini. Ti leggo alcuni messaggi. Ah. Abbiamo fatto un paracadute con due lenzuola del corredo di mia sorella, ci siamo buttati sopra la cabina di un camion, è arrivata mia madre che mi ha menato per le lenzuola rovinate. Se non ci fossimo buttati dal tetto del palazzo di 10 metri, io e il mio amico Bruno adesso non saremmo qui. Mi sedevo sulla ringhiera del balcone al terzo piano e il vecchietto del palazzo di fronte mi diceva no, facendo segno con l'indice. Roberta. E poi sono arrivati invece altri messaggi, Giuseppe, tipo quello di Alberto di Roma, che ricorda ancora i manifesti a scuola con i disegni di diverse bombe con avvertimenti di grave pericolo, soprattutto nei confronti dei bambini. Come te lo ricordi quell'episodio? Sono passati 45 anni, quindi sono tanti. Me lo ricordo come se fosse ieri. Qual è la prima cosa che hai visto quando ti sei ripreso in ospedale? No, ma già prima che mi riprendevo vedevo tanta gente intorno che veniva a trovarmi, anche senza conoscerli, tantissima gente, e mi portavano doni da tutte le parti. Senti, quando sei tornato in paese, quando sei tornato a casa, che so, ci sono state fatte delle veglie, c'è stata una festa, oppure come l'ha vissuta la comunità questa cosa? Beh, i vicini di casa portavano ognuno qualcosa, allora si usava a portare anche un pacco di pasta, un pacco di caffè, così. Era una cosa così che si usanza. Ognuno faceva più o meno qualcosa del genere. È una cosa, tu frequenti ancora il paese in Calabria? Prima fuori onda mi dicevi che insomma sei mancato da diversi anni, poi sei tornato, giusto? Certo, se fosse per me ci andrei anche tutti gli anni, solo che per tante circostanze non è possibile. Adesso mi ricordi dove abiti, Giuseppe, per piacere? Sì, a Val della Torre, un paesino in provincia di Torino. E lavori in un'azienda che fa LED luminosi, giusto? Facciamo display elettronici a LED. Com'è che sei finito proprio lì a Torino? Avevi degli amici che ci lavoravano, dei parenti? Erano già venuti i miei fratelli qualche anno prima, okay. Dunque era più facile per me inserirmi. Invece, scusami, ti dicevo a proposito del paese, tu è una cosa di cui parli ancora quando vedi i tuoi cugini o i parenti, zii, nonni? È un episodio di cui si parla ancora oppure, come dire, basta, è successo? Al massimo qualche volta si accenna qualcosetta con i familiari, ma non se ne parla con nessuno. Tu hai un figlio? Io avevo scritto questa cosa, l'avevo scritto in tutti i temi di classe, le scuole che ho frequentato, certo. Però solo lì e basta. Tu hai un figlio di 12 anni, giusto Giuseppe? Certo. Come vivi la paura che lui faccia qualcosa che non dovrebbe fare? Beh, continuiamo a fargli tanti avvertimenti, tante continuamente, con lui è anche esageratamente forse. Ah, ok. Purtroppo. Giuseppe, io so che ti sei preso un'ora di permesso dal lavoro e quindi insomma per la chiacchierata e quindi te la faccio godere. Ti ringrazio per la storia che era una storia, dico sempre, ci sono delle storie semplici, delle storie minime e invece delle storie che hanno una forte valenza non solo simbolica e questa era indubbiamente una di quelle. Grazie mille Giuseppe. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Andrea, ho fatto esperimenti col fuoco in cantina dove mio padre teneva i fusti di cherosene per il riscaldamento del suo negozio. E ancora, Armando, ci sdraiavamo sotto i camion aspettando che partissero. Questa è una serie di vittime mancate che adesso... Perché poi in realtà quando non succede una cosa come quella che è successa a Giuseppe ci si ride su, no? Quando da grande. Ti ricordi quando facevamo sta roba? Che scemi che eravamo. A 5 anni facevo le scintille con i fili infilati nella presa. A 10 pescavo in apnea proiettili di contraerea da una chiatta affondata all'Elba. Ora ne ho 60 e non lo rifarei. Ti ringrazio per averci scritto che non lo rifaresti. A 9 anni ho passato la sbarra chiusa di un passaggio a livello ed è arrivato un treno. Per fortuna lo spostamento d'aria mi ha scaraventato a terra. Però forse vince tra tutti gli atti imbecilli fatti da quando si era ragazzini il messaggio di Marco che scrive: sono entrato in un bosco in fiamme per fare bruciare gli aerei di carta. Ora Marco, qual era il bosco in fiamme innanzitutto? Come da solo ti trovavi vicino a un bosco in fiamme? E poi l'idea di fare bruciare gli aerei di carta, cioè li incendiavi e poi li lanciavi o li lanciavi e aspettavi che il fuoco li consumasse? E poi ringrazio Sirio che mi scrive a proposito del TUC, della sbarra d'equilibrio TUC, che però mi fa piacere che arrivi, basta il suono. Matteo, tu ti riferisci alla balaustra, l'asse di equilibrio si usa in ginnastica artistica. Benissimo, grazie Sirio, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Pietro Lacorte, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Scrivete storie, raccontate storie, inviatele a voi siete qui, @radio24.it, ma soprattutto ascoltate in diretta alle 16.30, in replica la mattina, molto presto, alle 5 qualcosa, mi pare, e soprattutto scaricate il podcast se vi perdete qualche puntata. Grazie soprattutto a Giuseppe, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Maurizio e vivo a Spoleto. La protagonista della storia di domani è mia moglie Paola. e racconta di un viaggio, per così dire, non convenzionale, fatto in Sardegna nella primavera di qualche anno fa, terminato in modo tragicomico. Questa è la nostra storia e noi siamo qui.